Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoj. Stepan Arkadic aveva studiato bene a scuola, grazie alle sue buone attitudini, ma era pigro e monello e perciò era rimasto fra gli ultimi. Nonostante la sua vita sempre sregolata, il grado modesto e l'età ancor giovane, occupava tuttavia un posto onorevole e con un buon stipendio da dirigente di uno degli uffici amministrativi di Mosca. Aveva ricevuto questo posto per il tramite del marito di sua sorella Anna, Alexei Alexandrovich Karenin, che occupava uno dei posti più importanti nel ministero dal quale dipendeva l'ufficio. Ma se Karenin non avesse nominato suo cognato a quel posto, attraverso un centinaio di altre persone, fratelli, sorelle, parenti, prozii, Stiva Oblonsky avrebbe avuto egualmente quel posto o un altro consimile, e i 6.000 rubli di stipendio che gli erano necessari, giacché i suoi affari, malgrado il considerevole patrimonio della moglie, erano in uno stato rovinoso. Stepan Arkadic, oltre all'amore, si era acquistato anche la stima dei colleghi, dei dipendenti, dei capi e di tutti coloro che avevano a che fare con lui. Le principali qualità di Stepan Arkadic che gli avevano meritato questa stima generale in servizio consistevano in primo luogo nella sua straordinaria indulgenza verso gli altri, che si basava in lui sulla consapevolezza dei propri difetti. In secondo luogo, in un assoluto liberalismo, non quello di cui egli leggeva sui giornali, ma quello che aveva nel sangue e con il quale trattava in modo perfettamente uguale e identico tutte le persone, qualsiasi fosse il loro titolo e il loro stato. E in terzo luogo, ed era l'essenziale, in un'assoluta indifferenza per gli affari di cui si occupava, in seguito alla qualcosa non si entusiasmava mai e non faceva sbagli. Giunto al luogo del suo impiego, Stepan Arkadic, accompagnato da un usciere reverente, passò con la borsa sotto braccio nel suo piccolo studio, indossò l'uniforme ed entrò in aula. Scrivani e impiegati si alzarono tutti salutando con lietezza e rispetto. Stepan Arkadic, come sempre, andò in fretta al suo posto, strinse la mano ai membri del consiglio e sedette. Scherzò e conversò proprio quel tanto che era conveniente e cominciò il lavoro. Nessuno meglio di lui sapeva trovare quel punto limite fra libertà, semplicità e tono ufficiale che è necessario per potersi piacevolmente occupare degli affari. Non erano ancora le due quando la grande porta a vetri dell'aula improvvisamente si aprì ed entrò qualcuno. Tutti i membri del consiglio sotto il ritratto dell'imperatore e al di là dello specchio si voltarono a guardare la porta, contenti della distrazione. Ma l'usciere cacciò subito via colui che era entrato e richiuse la porta a vetri alle sue spalle. Quando si finì di leggere la pratica, Stepan Arkadic si alzò stiracchiandosi e, rendendo omaggio al liberalismo dell'epoca, ancora in aula tirò fuori una sigaretta e si avviò verso il proprio studio. Due suoi colleghi, il vecchio funzionario Nikitin e il gentiluomo da camera Grinevich, uscirono con lui. «Dopo colazione riusciremo a finire», disse Stepan Arkadic. «Senz'altro ci riusciremo», disse Nikitin. «Deve essere un bel imbroglione quel Fomin», disse Grinevich, a proposito di una delle persone implicate nella faccenda che avevano in esame. Alle parole di Grinevich, Stepan Arkadic si aggrottò, facendo con questo sentire che era sconveniente formulare un giudizio prima del tempo, e non rispose nulla. «Chi era entrato?» domandò l'usciere. «Un tale, vostra eccellenza, senza chiedere il permesso, si è intrufolato dentro mentre io ero voltato. Chiedeva di voi. Gli avevo pur detto, quando usciranno i membri, in tal caso...» «E dov'è?» «Forse è uscito nel vestibolo. Prima era sempre qui che andava su e giù». «Ecco, è quello!» disse l'usciere, indicando un uomo di robusta corporatura, largo di spalle, con la barba ricciuta, che senza essersi tolto il berretto di montone saliva rapido e leggero i gradini consunti della scalinata di pietra. Stepan Arkadic stava in cima alla scala. Il suo viso bonariamente raggiante sopra il colletto ricamato dell'uniforme si illuminò ancora di più quando riconobbe colui che veniva su di corsa. Proprio lui, Levin, finalmente! Thank you. Levin era suo compagno e amico della prima giovinezza. Si volevano bene, nonostante la differenza dei caratteri e dei gusti, come si vogliono bene gli amici che si incontrano nella prima giovinezza. Ma nonostante questo, come sovente accade fra persone che hanno scelto differenti generi di attività, ciascuno di loro, benché ragionando giustificasse l'attività dell'altro, in cuor suo la disprezzava. A ciascuno sembrava che l'esistenza che conduceva fosse la sola vera vita e che quella condotta dall'amico fosse solamente una parvenza di vita. Oblonsky non poteva frenare un lieve sorriso canzonatorio alla vista dell'amico. Erano ormai molte volte che l'aveva visto arrivare a Mosca dalla campagna, dove faceva qualcosa, ma che cosa di preciso facesse, questo Stepan Arkadich non aveva mai potuto capirlo bene, né se ne interessava. Levin arrivava a Mosca sempre agitato, frettoloso, un poco imbarazzato e irritato da questo suo essere impacciato, e quasi sempre con un'opinione completamente nuova e inaspettata sulle cose. Stepan Arkadich ne rideva, ma questo gli piaceva. Proprio nello stesso modo, anche Levin, in cuor suo, disprezzava la maniera di vivere cittadina dell'amico e il suo impiego, che considerava una stupidaggine, e ne rideva. Ma la differenza stava nel fatto che Oblonsky, facendo quel che fanno tutti, rideva con sicurezza e benevolenza. Levin, invece, senza sicurezza e talvolta con stizza. «Ti aspettavamo da tempo», disse Stepan Arkadich, entrando nell'ufficio e liberando il braccio di Levin, come a mostrare con questo che lì i pericoli erano finiti. «Sono molto, molto contento di vederti», proseguì. «Che fai? Come stai? Quando sei arrivato?» «Senti, andiamo a far colazione da Gurin e là parleremo. Sino alle 3 io sono libero». «No», rispose Levin dopo averci pensato. «Devo ancora andare in un posto». «Va bene, allora andremo insieme a pranzo». «Pranzare? Ma io non ho bisogno di niente di speciale. Soltanto di dire due parole, di farti una domanda e poi si chiacchiera. E allora dimmi subito queste due parole e poi converseremo a pranzo». «Ecco le due parole. Del resto... niente di speciale». Il viso di Levin a un tratto assunse un'espressione cattiva che nasceva dallo sforzo di superare la timidezza. «Che cosa fanno gli Scerbachi? Tutto come prima», disse. Stepan Arkadich, il quale già da tempo sapeva che Levin era innamorato di sua cognata Kitty, sorrise in modo appena percettibile e gli occhi gli brillarono. «Cambiamenti non ce ne sono. Ma è un peccato che non ti sia fatto vedere per tanto tempo». «Perché? Che cosa c'è?» domandò Levin spaventato. No, niente», rispose Oblonsky. «Ne parleremo. Ma tu per cosa sei venuto propriamente?» Anche di questo parleremo dopo, disse Levin arrossendo di nuovo sino alle orecchie. E su, va bene, ho capito, disse Stepan Arkadic. Vedi, ti avrei invitato a casa, ma mia moglie non sta molto bene. Sicché, se vuoi vederli, probabilmente oggi loro saranno al giardino zoologico dalle 4 alle 5. Chi ti va a pattinare? Vai là, io passerò a prenderti e andremo a pranzare insieme in qualche posto. Magnifico! Arrivederci dunque! Bada però, io ti conosco, tu sei capace di dimenticartene o di partire tutto a un tratto per la campagna, gridò ridendo Stepan Arkadic. No, ti assicuro! E ricordandosi solo quando era già sulla porta che aveva dimenticato di salutare i colleghi di Oblomsky, Levin uscì dall'ufficio. Deve essere un signore molto energico, disse Grinevich quando Levin fu uscito. Sì, Batioska, disse Stepan Arkadic scuotendo la testa. Ecco un uomo felice. 3.000 desiatini nel distretto di Karazin, tutto l'avvenire davanti e quanta freschezza. Mica come noi. Perché vi lagnate, Stepan Arkadic? Perché va male, malissimo, disse Stepan Arkadic con un pesante sospiro. Quando Oblomsky aveva domandato a Levin perché cosa propriamente fosse arrivato, Levin era arrossito e si era infuriato con se stesso perché non poteva rispondergli «Sono venuto per chiedere la mano di tua cognata», quantunque fosse venuto solamente per questo. Le case dei Levin e degli Scerbachi erano vecchie case nobili moscovite ed erano sempre state in stretti e amichevoli rapporti fra loro. Questo legame si era ancor più consolidato durante il periodo degli studi di Levin. Egli si era preparato ed era entrato all'università insieme al giovane principe Scerbachi, il fratello di Dolly e di Kitty. In quel periodo Levin andava sovente in casa Scerbachi e si era innamorato di casa Scerbachi. Per quanto possa sembrare strano, Konstantin Levin era innamorato proprio della casa, della famiglia e in particolare della metà femminile della famiglia Scerbachi. Levin non ricordava la propria madre e l'unica sua sorella era maggiore di lui, sicché in casa Scerbachi per la prima volta aveva veduto quell'ambiente di vecchia famiglia nobiliare, educato e retto, del quale lui era stato privato dalla morte del padre e della madre. Tutti i componenti di quella famiglia, in particolare la metà femminile, gli apparivano avvolti da una sorta di misteriosa, poetica cortina, e non solo non scorgeva in loro alcun difetto, ma sotto questa poetica cortina che li avvolgeva presumeva i sentimenti più elevati e tutte le perfezioni possibili. Sembrava che non vi potesse essere nulla di più semplice per lui, di buona razza, piuttosto ricco che povero, di 32 anni, che chiedere la mano della principessina Scerbakaja. Secondo ogni probabilità lo avrebbero considerato subito un buon partito. Ma Levin era innamorato e perciò gli sembrava che Kitty fosse una tal perfezione sotto tutti i riguardi, un essere talmente al di sopra di ogni cosa terrena, e lui invece un essere talmente terreno e basso da non potersi neppur pensare che gli altri, ed essa per prima, lo giudicassero degno di lei. Trascorsi 2 mesi a Mosca come in un fumo, quasi ogni giorno vedendosi con Kitty in società, dove aveva cominciato ad andare per poterla incontrare, Levin improvvisamente aveva deciso che la cosa non era possibile ed era ripartito per la campagna. La convinzione di Levin che la cosa non fosse possibile si basava sul fatto che, agli occhi dei parenti, lui doveva essere un partito sconveniente e indegno per l'affascinante Kitty e che Kitty stessa non potesse amarlo. Agli occhi dei parenti lui non aveva alcuna attività precisa e normale e nessuna posizione nel mondo, mentre ora che aveva 32 anni i suoi compagni erano già chi colonnello e aiutante di campo, chi professore, chi direttore di banca e di ferrovie o presidente d'un ufficio amministrativo come Oblomsky, lui invece, ed era certo di apparire così agli altri, era un proprietario terriero che si occupava di allevamento di vacche, di caccia alle beccacce e di costruzioni rurali. Ossia un ragazzone senza talento, dal quale non era venuto fuori nulla. Uno che, secondo le concezioni della società, faceva ciò che fanno le persone buone a nulla. Nemmeno la misteriosa, affascinante Kitty poteva amare un uomo così brutto quale lui si considerava, e soprattutto così sempliciotto, che non spiccava per alcunché. Oltre a ciò, i suoi rapporti di prima con Kitty, rapporti di un adulto verso una bambina dovuti all'amicizia con il fratello, gli parevano un nuovo ostacolo per l'amore. Un uomo buono e brutto, quale lui si considerava, si poteva amare come un amico, ma per essere amato dell'amore con il quale lui amava Kitty, bisognava essere un bell'uomo e soprattutto un uomo eccezionale. È vero che aveva sentito dire che le donne spesso amano uomini brutti, semplici, ma non ci credeva, poiché giudicava in base a se stesso, e lui poteva amare solamente donne belle, misteriose ed eccezionali. Trascorsi 2 mesi da solo in campagna, si era però convinto che il suo non era uno di quegli innamoramenti che aveva sperimentato nella prima giovinezza, che questo sentimento non gli dava un minuto di pace, che non poteva vivere senza aver risolto il problema se lei sarebbe diventata o meno sua moglie, e che la sua disperazione derivava solamente dalla sua immaginazione, che non aveva nessuna prova che gli sarebbe stato opposto un rifiuto. E ora era arrivato a Mosca con la ferma decisione di chiedere la mano di Kitty e di sposarsi, se l'avessero accettato. Oppure non poteva nemmeno pensare che cosa sarebbe stato di lui se l'avessero respinto. Alle 4, sentendo il cuore che gli batteva, Levin discese dalla vettura di piazza accanto al giardino zoologico e si avviò per un viottolo verso le montagne di ghiaccio e il campo di pattinaggio, sapendo con certezza di trovarvi lei, poiché aveva veduto la carrozza degli Sherpaki all'ingresso. Era una giornata limpida, di gelo. All'ingresso stavano file di carrozze, di slitte, di cocchieri e di gendarmi. Un pubblico lindo, con i cappelli che scintillavano sotto il sole forte, brulicava all'ingresso e lungo i viottoli puliti fra le casette russe con le travi scolpite. Le vecchie betulle ricciute del giardino, con tutti i rami piegati sotto il peso della neve, sembravano agghindate in nuove, solenni pianete. Levin camminava per il viottolo verso il campo di pattinaggio e si diceva: «Bisogna che non mi agiti, bisogna che mi calmi. Che cosa è? Che cosa vuoi? Stai zitto, stupido!» si rivolgeva al proprio cuore. E quanto più si sforzava di tranquillizzarsi, tanto più gli mancava il respiro. Incontrò un amico che lo chiamò, ma non lo riconobbe neppure. Si avvicinò alle montagne sulle quali cigolavano le catene degli slittini che scendevano e salivano, rumoreggiavano le slitte che rotolavano giù e risuonavano voci allegre. Fece ancora qualche passo e davanti a lui si aprì il campo di pattinaggio. Subito, fra tutti quelli che pattinavano, riconobbe lei. Era più bella di quanto se la immaginava. Quando pensava a lei, poteva vivamente immaginarla tutta. In particolare la grazia di quella piccola testina bionda con una espressione di limpidità e di bontà infantili, così liberamente posata sulle leggiadre spalle di ragazza. L'aria infantile del viso, insieme con la fine bellezza della figura, costituiva il suo particolare fascino che egli ben ricordava. Ma ciò che, come sempre, sorprendeva in lei era l'espressione degli occhi, miti, tranquilli e sinceri, e in special modo il sorriso, che sempre trasportava Levin in un mondo incantato, dove egli si sentiva intenerito e placato come poteva ricordare se stesso nelle rare giornate della sua prima infanzia. «Siete qui da molto», disse lei porgendogli la mano. «Vi ringrazio», aggiunse quando lui le raccolse il fazzoletto caduto dal manicotto. «Io da poco, oggi, sì, sono arrivato», rispose Levin, che per l'emozione non aveva capito subito la sua domanda. «Volevo venire da voi», disse, ma subito, ricordando con quale intenzione l'avesse cercata, si turbò e arrossì. «Non sapevo che pattinaste e così bene anche». Lei lo guardò con attenzione, come se desiderasse capire la causa del suo turbamento. «Una vostra lode è da tener da conto. Qui si è mantenuta la leggenda che voi siete il miglior pattinatore», disse scuotendo con la piccola mano nel guanto nero gli aghi di brina caduti sul manicotto. «Sì, una volta pattinavo con gran passione. Volevo raggiungere la perfezione». «A quanto pare voi fate tutto con passione», disse lei sorridendo. «Mi piacerebbe tanto vedere come pattinate. Su, mettete i pattini e andiamo a pattinare insieme». «Pattinare insieme? E come può essere possibile?» pensò Levin guardandola. «Li metto subito», disse. E andò a mettersi i pattini. Quando corse di nuovo da Kitty, il viso di lei non era più severo. Gli occhi avevano il loro sguardo sincero e dolce. Ma a Levin parve che nella dolcezza di lei vi fosse un'intonazione particolare, di calma meditata, e diventò triste. Dopo aver parlato della vecchia governante, delle sue stranezze, lei lo interrogò sulla sua vita. «Possibile che non vi annoiate d'inverno in campagna?» disse. «No, non mi annoio, sono molto occupato», disse lui, sentendo che lei lo costringeva al suo tono tranquillo, dal quale lui non avrebbe più avuto la forza di uscire, così come era accaduto al principio dell'inverno. «Siete venuto per rimanere molto tempo?» gli domandò Kitty. «Non lo so», rispose senza pensare a quel che diceva. Gli era venuto il pensiero che se avesse ceduto a quel suo tono di tranquilla amicizia, di nuovo sarebbe partito senza aver deciso nulla. E così decise di ribellarsi. «Come non lo sapete?» «Non lo so, dipende da voi», disse, e subito si sentì terrorizzato. Sia che lei non avesse sentito le sue parole, sia che non le avesse volute sentire, fatto sta che parve inciampare pestando due volte il piedino e si affrettò a pattinare via da lui. pattinò verso Mademoiselle Linon, le disse qualcosa e si diresse verso la casetta dove le signore si toglievano i pattini. «Dio mio, che cosa ho fatto? Signore, Dio mio, aiutami, ispirami!» disse Levin, pregando e nello stesso tempo sentendo il bisogno di un moto violento, prendendo la rincorsa e virando veloce intorno alla pista e su se stesso. Elsa Galvato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoi. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.